24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Luca Zaia, 45 anni, veneto, sposato senza figli, laurea in veterinaria. Nel 1998 è il più giovane presidente di provincia, vicepresidente della Regione Veneto dal 2005 al 2008, poi ministro per le politiche agricole nel quarto governo Berlusconi. Dall'aprile del 2010 è presidente della Regione Veneta. Oggi è il più gradito fra tutti i presidenti, alla pari con il toscano Rossi. La sanità è il suo fiore all'occhiello. La sua ultima battaglia è contro le Ferrovie Italiane e Trenitalia. Perché? Ce lo dice lui. Ecco, presidente Zaia, lei ha dichiarato guerra a Trenitalia. Perché? Beh, innanzitutto buongiorno. Io dichiaro guerra sostanzialmente perché penso che i cittadini debbano avere servizi degni di questo nome. E sui treni c'è da discutere. Ma poi l'ha fatta sta guerra? Beh, guardi, abbiamo deciso formalmente come giunta di mettere in gara il servizio, il che significa che questa gara darà modo a tutti di partecipare e di rendere pubbliche anche le nostre decisioni. Ecco, ma Moretti come l'ha presa? Ma non so come l'abbia presa. Ne avete parlato? Il mercato è libero, per cui noi siamo sostanzialmente interessati ad avere treni non affollati, confortevoli e puntuali. Senta, ma intanto punta le ferrovie svizzere, vero? Ma guardi, noi non siamo nelle condizioni di scegliere il nostro partner. Le gare decideranno i partner. Ci sono anche i tedeschi interessati. Ah, svizzeri, tedeschi, italiani. Sarà una bella gara. Quando è la gara? Beh, io spero di sì. Fine 2015. Questi sono i termini che ci siamo dati. Senta, comunque una bella trovata la guerra a Trenitalia, come lo è stata la guerra al parroco che voleva lasciare spazio alla moschea, o quando ha lanciato nello spazio dei semi di radicchio. Insomma, eccetera. Mi pare che nella comunicazione lei ci gioca bene, modello Berlusconi. No, guardi, però in Veneto gli ospedali sono aperti di notte, lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica. Questa comunicazione è reale perché parla di cose reali. Ah, bene, questa è l'abilità del contenuto. Senta, 20 anni o poco meno al governo con Berlusconi. Che cosa ha imparato? Ma guardi, 20 anni fa ero un ragazzetto, me lo lasci dire fino in fondo. E si impara che comunque il contratto sociale è ancora una realtà. Rousseau diceva che le istituzioni sono lì a rappresentare il popolo e bisogna fare così. Quando si sbaglia, il popolo ti manda a casa. Ma alla fine è l'alleanza con Berlusconi che vi ha quasi mandato a casa, quasi azzerati. Guardi, che causa del suo mal pianga se stesso. Noi dobbiamo pensare non ai nostri alleati, ma dobbiamo pensare a mantenere la parola quando promettiamo le cose. Penso che molto spesso abbiamo promesso tante cose e poi non si sono seguite nei progetti. Senta, ma slogan come Padania libera, a proposito di promesse, Padania libera, devolution, sembrano parole di un altro secolo. Perché? Beh, e poi ogni slogan ha un suo periodo storico. Oggi noi in Veneto parliamo di indipendenza, ad esempio. È altrettanto vero che la rivoluzione con la pancia piena non la si fa. Forse abbiamo visto troppo in là in un momento storico nel quale la pancia era ancora piena. Ah, quindi ci vuole prima la crisi e poi si può discutere? Beh, diciamo che il popolo in questa condizione prende coscienza di cose che magari qualche giorno fa non vedeva. E questo è un dato di fatto. Cioè, allora Bossi è stato un anticipatore, ma aveva ragione? Beh, guardi, noi parlavamo del pericolo Cina 20 anni fa, parlavamo di federalismo quando parlare di federalismo voleva dire essere razzisti, parlavamo di euro quando dell'euro sembrava la soluzione di tutti i mali. E quindi parlare troppo presto delle cose che poi capitano non è politica. Però. Questo la storia ce lo insegna, oggi tutti vogliono i dazi, 15 anni fa chi chiedeva i dazi era fuori dai mercati, fuori dalla modernità. Insomma, allora Bossi è un genio. Bossi è un grande visionario, una persona che comunque ha indicato la via e ha saputo anche interpretare delle esigenze che oggi sono reali. Ma che cosa resta di Bossi nella Lega di oggi? Beh, resta la sua idea, resta quello che comunque ha costruito in questi anni, ha dedicato una vita a questa idea, resta poi colui che ha saputo indicare la via. È altrettanto vero che poi resta anche la parte finale di questa vita politica che è stata intrisa di polemica. Senta, presidente Zaia, adesso c'è Salvini, segretario. Lei però, se non sbaglio, preferiva Maroni, vero? No, guardi, io non ho mai espresso preferenze. Ah. Le dico semplicemente che è fondamentale che il segretario abbia il sostegno di tutti ed è bene che Salvini abbia il sostegno di tutti. E lo ha? Beh, il mio sicuramente sì, nel senso che io condivido la linea di Salvini e sono convinto fino in fondo che Salvini abbia le idee chiare su come traghettare la Lega. Senta, comunque lei oggi è il presidente di regione più amato d'Italia, l'abbiamo detto nella scheda di presentazione, sono dei sondaggi insieme al presidente della Toscana Rossi, un leghista, un ex comunista. Siete solo bravi amministratori oppure avete qualcosa in comune? Beh, guardi, mi lasci dire che Enrico Rossi ha come base elettorale un partito che, fra virgolette, egemone in Toscana. Io non ho un partito che è egemone in Veneto, per cui me la godo di più questa graduatoria. Bravo, insomma, non le piace questo esequo. I veneti hanno apprezzato, a mio avviso, il fatto che io non mi sono mai voluto occupare delle beghe della politica, della segreteria, e mi occupo del Veneto H24, come dico io. Ecco, senta, quindi, a parte la comunicazione in cui tutti le riconoscono abilità, questo risultato arriva solo dal lavoro? Decisamente sì, guardi, gli ospedali aperti di notte, il pronto soccorso con gli steward e le hostess fra 50 giorni, la volontà di aver fatto un nuovo piano sociosanitario, aver messo in cantiere 10 ospedali e molto altro ancora. Senta, ma davvero pensa che è il Veneto che mantiene l'Italia? Beh, guardi, sono i dati che ci danno ragione. Il Veneto ha un residuo fiscale attivo, quindi i soldi che lascia Roma sono 21 miliardi di tasse all'anno. Sì, però, la Lombardia 54. Senta, però, la Corte dei Conti proprio oggi dice, non dice il contrario, ma quasi, dice che il Sud, che in 20 anni ha pagato di più di tasse. Quindi questa retorica del nord che mantiene il sud, la Corte dei Conti oggi la smentisce. Ma mi perdoni, non è retorica, è abbastanza discutibile anche quello che viene detto dalla Corte dei Conti. Ah, vabbè. I dati concreti ci dicono che un pasto in ospedale in Veneto costa 6,5 euro, al sud arriva a costare anche 60-80 euro. Se la Corte dei Conti ci spiega anche questo, forse riusciamo a trovare un punto non di so incontro. Se la Corte dei Conti deve spiegare anche questo, però no, i dati del 130% sono veri. La Corte dei Conti deve occuparsi dei danni erariali. A mio avviso un pasto che costa 10 volte quindi la Corte dei Conti non fa bene il suo mestiere. No, la Corte questo sta dicendo. No, io sto dicendo che la Corte dei Conti fa bene il suo mestiere, però non condivido quello che dice rispetto al fatto che il Sud mantiene l'Italia. Ah, vabbè, insomma, quindi lo fa bene un po'. Ci sono quando le dà ragione, va ci bene. Ci sono quattro regioni che hanno 5 miliardi di buco della sanità al Sud. Senta, secondo lei, applicando il modello Veneto all'Italia, si risparmierebbero 30 miliardi. Esatto. Perché? Beh, semplicemente perché vorrebbe dire applicare la virtuosità, ma questi sono dati ufficiali, a tutta Italia. Il pasto in ospedale, come le ho detto, la pubblica amministrazione ha 500.000 di dipendenti in più, ma soprattutto vorrei ricordare che costi standard significa virtuosità per tutti. Ecco, ma lei ha spiegato tutto questo a Renzi quando è venuto in Veneto? No? Sì, sì, Renzi lo sa benissimo che questa è la sua sfida. E secondo lei è in grado di affrontare questa sfida? Guardi, Renzi, come tutti, io non sono convinto che ci siano amministratori cialtroni e non cialtroni, poi c'è sempre la voglia di fare. La verità è che la sua grande sfida, l'ho detto pubblicamente, sarà quella della questione del Sud. Certo. Lei conosce Renzi da tempo. La caratteristica che lo convince di più di Renzi? Ma guardi, siamo nella fase della luna di miele, l'abbiamo vista con Monti. Ma mica tanto, mi sembra che già siamo sui primi barcollamenti. Ma l'abbiamo vista con Monti, l'abbiamo vista con Letta, quella di Renzi durerà molto meno. Molto meno, ha molto meno tempo a disposizione. Senta, la staffetta Letta-Renzi secondo lei è solo l'esito di una lotta interna al PD o c'è una vera differenza fra i due? Guardi, di differenze ce ne sono sempre tra le persone. Naturale, ma e a me, a mio avviso, quello è solo uno scambio di prigionieri. Senta, lei era tra i barbari sognanti di Maroni, ma che cosa sognavate? Ma guardi, innanzitutto, cioè io non ho mai fatto parte di gruppi e me ne sono sempre chiamato fuori. Sono convinto che la Lega sia una solo e qualora qualcuno identifica delle categorie vuol dire che non è più leghista. Io la vedo così. Senta, di Renzi si dice anche che anche lui è un barbaro rivoluzionario, che è l'unica chance che ha. Un pochino l'ha detto, ma è così? Beh, io penso che lo aiuti un po' la latitudine, nel senso che comunque viene da una regione virtuosa, viene da una condizione nella quale la virtuosità è una costante di vita per gli amministratori. Io spero porti quel bagaglio culturale, altrimenti è finita. Senta, Presidente Zaia, parliamo di soldi. Il Veneto ha 1.300.000.000 in cassa, così ho letto, e non può spenderli per via del patto di stabilità interno italiano, perché lo impedisce. Allora? E allora Roma ci presta gli stessi soldi, 1,4 miliardi per il pagadebiti, per pagare le fatture a 7.000 aziende, e ce li presta il 3,5%, lo Stato usuraio. Senta, ma se il patto di stabilità è un'invenzione italiana, come dice lei, perché lei non li spende questi soldi invece di farseli prestare? Li ha in cassa, li spende, poi cosa capita? Beh, il patto di stabilità è un'equa divisione del malessere. e se si sfondasse il patto di stabilità, noi come amministrazioni non avremmo più trasferimenti, non potremmo fare assunzioni e quindi portiamo la paralisi le nostre amministrazioni. E quindi sto 1,3 miliardi non potete spenderlo. Diciamo che è lì fermo in cassa, in modo tale che la contabilità nazionale sia sempre pulita, ma i virtuosi vengono penalizzati, gli spreconi giovano di questo fatto. Senta, lei ciclicamente minaccia appunto per questo tante cose, per esempio lo sciopero fiscale, se il governo non fa quello che lei pensa giusto. Lo ha fatto nel 2010, lo fa di nuovo adesso? Grazie per averlo ricordato. 2010, sì. Governo Berlusconi, sì. Ho portato a casa 362 milioni per l'alluvione e lo farò anche con questo governo. E a questo giro quanti ne vuole portare? Abbiamo presentato un conto proprio. 400 e 554 milioni i danni dell'alluvione di quest'anno. E quanto vale? A quanto chiude? No, noi chiuderemo molto più in su perché candidiamo il Veneto a modello di virtuosità per le opere contro l'alluvione. Senta, però, per esempio, adesso di fronte al decreto Salva Roma, c'è chi vuole in Veneto un referendum online per staccare il Veneto dall'Italia, d'accordo? Beh, abbiamo fatto anche quello non online, deviso la scorsa settimana. Sì, sì, io sono d'accordo. Cioè, lei vuole staccare il Veneto dall'Italia? Io sono convinto che quel processo che riguarda la Catalunya, che riguarda la Scozia a livello europeo, che comunque è previsto dal diritto internazionale, debba essere quantomeno proposto e testato con il popolo, con i cittadini. Però, Presidente Zaia, lei ha fatto il Ministro dell'Agricoltura, ha giurato sulla Costituzione italiana che prevede l'integrità del territorio nazionale. Questo giuramento l'ha dimenticato? No, lo confermo. Ma nel 1948 Einaudi diceva nel presentare la Costituzione ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Questa autonomia non è stata data. Beh, e quindi il problema dell'indipendenza non è un problema degli indipendentisti, è un problema di Roma che gestisce in maniera centralista la Costituzione. Senta, però la Lega ha fatto i conti, dice che la libertà del Veneto costerebbe 117 miliardi, mi sembra. È così? È la regionalizzazione del debito pubblico. È la volontà di dire se accade questo, noi siamo disposti a pagare la nostra quota di debito pubblico, ammesso e non concesso che l'abbia creata il Veneto. Beh, se quei numeri della Corte dei Conti, insomma, qualche riflessione in più la devono fare. Guardi che la Corte dei Conti in Veneto ci dice che siamo bravi. Sì, però dice anche che il Sud ha pagato di più. Beh, questo da dimostrare. Ho capito, ma la Corte dei Conti è brava quando le piace, cattiva quando non le piace, insomma. C'è una brutta calcolatrice. Ah, brutta calcolatrice, può darsi. Ne regali una che intanto voi siete risparmiatori. Senta, quindi il decreto Salva Roma, secondo lei, non andava fatto, bisognava lasciar fallire Roma, se ho capito bene. Dovevano essere portati i libri in tribunale, cioè, se fosse un'azienda fallire. Ma sì, anche perché il percorso di virtuosità non può prescindere dal fatto che a un certo punto bisogna dire basta. Cioè, per fare la frittata bisogna rompere le uova. Sì, ma la frittata comunque è buona e ci dà comunque vita poi. Quindi bisogna fare come a Detroit, lasciarla fallire per ripartire. Io Roma fallita. Sono convinto che questo non sia un abbandono, ma sia l'inizio di un percorso virtuoso, percorso che anche Roma deve fare. Ma secondo lei allora quante sono le regioni italiane che dovrebbero fallire? Io sono convinto che ci siano molte regioni che possono portare tranquillamente i libri in tribunale. E non glielo so dire. Lei non vuol dire fallimento, lei dice libri in tribunale. Sì, perché poi ci sarà un curatore fallimentare. Ah, no? Ecco. E quali sono, secondo lei? Me ne dica qualcuna certa, secondo lei? Beh, io vedo dei dati che penso che sicuramente ci siano delle ragioni tipo la Calabria sul quale qualche ragionamento bisogna fare, la Sicilia, ma le dirò anche di più, glielo dico pubblicamente, io sarei disposto ad affrontare ad esempio un'azione di tutoraggio, si prendono le regioni virtuose ed accompagnino la vita amministrativa delle regioni non virtuose. Cioè lei alleva la Sicilia, insomma, io va da Crocetta e già adesso ci penso io, ti dico come si fa. Potremmo ad esempio farlo con la sanità. Questa è una proposta, Crocetta se vuole risponderci, noi siamo qua. Senta, intanto però sarà tutto bello, tutto oro quello che luccica, ma gli avvocati chiedono il fallimento, questa volta da voi, del Tribunale di Bassano. Allora non è proprio tutto che funziona così bene come la sanità. No, guardi, il Tribunale di Bassano è virtuosissimo. Una causa civile dura 2 anni e mezzo contro i 7 anni che in giro per il Veneto e anche in Italia. Perché gli avvocati vogliono farlo fallire? No, gli avvocati non vogliono farlo fallire. C'è stata una legge che prevede la soppressione del Tribunale di Bassano. Noi lo abbiamo salvato e grazie poi a un decreto correttivo. Non è solo quello il tema, c'è anche il tema proprio della lunghezza dei processi. La lunghezza, Stella oggi ne parla sul Corriere della Sera. Ma ha ragione Stella rispetto alla lunghezza dei processi, perché la lunghezza dei processi per noi significa mancanza di competitività in una regione che ha imprese e che ha attrattività. Vabbè, non siete così efficienti. Allora, senta, a Bruxelles come ministro, Lei si è fatto valere, lo riconoscono tutti. Oggi che cosa bisognerebbe fare a Bruxelles? E non andare con il cappello in mano. Cioè picchiare pugni sul tavolo? Beh sì, guardi, io... Ma se ne accorgono, se picchiamo i pugni sul tavolo, ci pigliano in considerazione? Se ne accorgono. Sì. Io ho visto all'opera i francesi, i tedeschi, e sanno come battere. Sull'agricoltura? Beh sì, ma poi lo fanno, visto che anche molti colleghi, penso Michel Barnier, oggi è commissario europeo da tutt'altra parte, vedo che comunque opera ed è deciso, è un decisionista. Bisogna andare lì e non andare sempre con l'idea della troica che ti viene a trovare. Bisogna avere, non aver paura di rovesciare i tavoli. No, noi siamo stato fondatore dell'Europa, questo è bene ricordarlo. Senta, cosa rimpiange di più della sua vita di ministro? Beh, guardi, le potrei dire che, e questa è una domanda che mi fanno spesso, prima mi occupavo di un reparto altamente specialistico dell'ospedale, oggi mi occupo del pronto soccorso. Più bello l'ospedale specialistico? Beh, l'ospedale specialistico ti dà il vantaggio di occuparti sempre ed esclusivamente di quella cosa, però mi lasci dire, io mi occupo dei veneti e questa è una grande soddisfazione. Senta, lei ha detto che, e continua a dirlo, che il Veneto mantiene l'Italia, però anche la Lombardia lo dice. Beh sì, la Lombardia ha 54 miliardi di residuo fiscale, cioè tasse che restano a Roma, noi 21, ma la popolazione è meno della metà quella del Veneto, certo. E il modello produttivo è anche diverso. Senta, però io una cosa non la capisco, la Lega governa, il Veneto che è ricco, che è il modello per tutti, la Lombardia che c'ha i soldi per tutti, il Piemonte sì, c'ha un po' di problemi adesso, povero Cota, ma... I sondaggi però vi danno al limite della sopravvivenza, allora governare bene non basta per prendere i voti. Ma guardi, il voto politico è una cosa, venga in Veneto nel 2015 e vedremo il risultato. Ah, vabbè, lei è ottimista, dice, recupera. Molto ottimista. Senta, ma in questi 20 anni però, la Lega, qual è l'occasione più grande che ha perso secondo lei? Lei un po' l'ha detto prima, abbiamo anticipato tutto, dei geni incompresi per troppo tempo, ma parlando di una cosa concreta, un'occasione vera che invece c'era e non l'avete vista. Guardi, è difficile fare il processo al passato, le dico che forse su alcune partite dovevamo essere più barricadieri, più intransigenti, è altrettanto vero che nell'assemblea di condominio quando ci vai con pochi millesimi stai zitto, non è che puoi decidere tutto te, e se avessimo avuto il 51% avremmo fatto la rivoluzione. Vabbè, allora ha ragione Berlusconi che dice per governare ci vuole il 51%, se no le alleanze non si può fare niente. Lo dice anche il codice civile, non solo Berlusconi. Sì, no, dico nel senso... Unico partito che ha la maggioranza, cioè le alleanze, i piccoli partiti sono quelli che frenano e la legge elettorale sta in questa direzione, sembra. Guardi, io penso che la vera partita sia quella di trasformare i programmi elettorali in progetti di legge, in maniera tale che siano i cittadini a votare quei progetti di legge e dopodiché tu li trasformi in legge appena tu sei eletto. Senta, però Roma ladrona è stato a lungo il vostro slogan preferito. Piano piano poi è sparito, si è scoperto che anche la Lega aveva i suoi problemi seri coi soldi. Il potere corrompe tutti. No, guardi, chi le sta parlando o no? Io non sono, rappresento una regione che non è finita nel tritacarne dei rimborsi elettorali, dei rimborsi in generale. E penso che poi ci voglia anche l'etica, l'approccio giusto e poi non si può sempre generalizzare. No, certo, questo no. Poi però le merle marce parlavo... ci sono dappertutto, come giustamente ha ragione anche lei, le merle marce ci sono dappertutto. Senta, lei ha un po' accennato prima, lei dice che in Italia ci sono 500.000 dipendenti pubblici di troppo, no? L'ha detto più volte. Dove sono? Ma guardi, il calcolo dei costi standard ci dicono che nella pubblica amministrazione di 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici, 500.000 sono in più. Ecco, ma cosa bisogna farne? Vuole un esempio? Sì. No, voglio sapere cosa farne. Beh, ad esempio basterebbe dire che se i 22.000 forestali della Sicilia sono in più, visto considerato che Veneto ne ha solo 400, basterebbe non assumerne di più. Già se noi dessimo oggi il blocco delle assunzioni... Aspettiamo che finiscano, loro vita. Si va ad esaurimento naturale, già il rating, penso, nelle agenzie internazionali aumenterebbe per l'Italia. Senta, secondo lei Italia e Padania sono occupate militarmente, l'ho letto, dalle banche straniere. Ma quali banche? Ma guardi, le banche sono state il nostro socio occulto da sempre, in un modello produttivo efficientissimo. E noi oggi abbiamo bisogno che le banche siano al nostro fianco, che poi siano straniere. No, ma occupate militarmente, il significato non è positivo. Guardi, io non ricordo questa dichiarazione, scusare, ma non la ricordo. Vabbè, in genere sono preciso, ma insomma va bene. Lei diciamo... sicuramente è preciso, qualche giornalista che l'ha scritta no. Ah, va bene, ok. Dovevo venire alla fonte e verificarlo prima. Senta, Presidente Zaia, in Veneto ci sono 600.000 imprese per 5 milioni di abitanti, più o meno. Ecco, ma non sono troppo piccole per il mercato globale, 600.000 imprese su 5 milioni di abitanti. Il problema non è il numero, l'80% delle nostre imprese ha meno di 15 dipendenti. Noi abbiamo un modello di sviluppo che non è fordista, che non è quello della Fiat, del grande contenitore. Certo. Da noi c'è il distretto industriale diffuso, è un modello molto flessibile, vincente, dove si fa ricerca e si internazionalizza. Quindi sul mercato globale non è un modello obsoleto. Non è un modello obsoleto, l'importante è che le aziende siano patrimonializzate e strutturate. Però con 15 impiegati in media è più difficile, se il rapporto con la banca è complicato. Ma non è manifattura standardizzata, è manifattura di altissima qualità, alta tecnologia, cose che si fanno solo con quei dipendenti. Senta, ma l'occupazione selvaggia del territorio, che è un po' il problema, non è anche all'origine del dissesto idrogeologico del Veneto, che poi è quello che crea, quando ci sono le alluvioni, cioè un disastro completo. Non c'è anche questo problema? Ma guardi, mi lasci dire, sicuramente c'è anche questo problema. Abbiamo le colline del Prosecco, la Marone, certo, il Polesine, abbiamo un sacco di belle cose. Ma meraviglioso, Veneto. Non abbiamo solo le 600.000 imprese. Dall'altro voglio dire anche che, visto considerato che tutti dicono questo a livello nazionale, sono esattamente quelle aziende che poi vi pagano il conto. Senta, ma nel centrodestra le preferisce Alfano o Berlusconi come interlocutore? Ma non scelgo mai tra due. Ah, le prende tutte e due, ho capito. Senta, ma lei crede che l'accordo Berlusconi-Renzi sulla legge elettorale fa del bene al paese o no? Ma noi abbiamo bisogno di una legge elettorale, se facessero come abbiamo fatto... Ma quella? Beh, noi l'abbiamo già fatta in Veneto 2 anni fa. Quella lì, va bene. Non è proprio così, però va bene che i cittadini si eleggano i propri rappresentanti. E si farà la legge, secondo lei? Io spero che si faccia una nuova legge. Senta, il ministro Boschi ieri ha detto che i 4 sottosegretari indagati non devono dimettersi perché non basta un avviso di garanzia per doversi dimettere. Lei è d'accordo? Beh, una nuova linea non più giustizialista, questo lo dobbiamo dire. Io sono per un'altra proposta, si faccia un tribunale ad hoc per gli amministratori e si giudichino in 30 giorni, in 60 giorni, ma lo si faccia. Però è un'inversione di rotta del PD rispetto alla giustizia. Io penso che chi ha problemi debba dimettersi. Senta, ma è vero che lei oggi va più d'accordo col presidente Serracchiani del PD che con il collega di Torino del Piemonte Cota? No, guardi, io vado d'accordo con tutti. L'importante è non ci rimettano i veneti. Vabbè, senta, ma Cota le fa ste elezioni o no? Questo dovete chiedere a Cota. Cota comunque è stato vittima di un'assoluta ingiustizia rispetto a quanto è accaduto e rispetto all'interpretazione che è stata data alla formazione della Ma se le dicono che lei è più democristiano che leghista si offende? Demos vuol dire popolo, non mi offendo. Ah, bene. Senta, ma si vanta dell'eccellenza raggiunta dalla sanità in Veneto, me l'ha già detto, ma la cosa che la soddisfa di più cos'è? Questi ospedali aperti giorno e notte? No, che siamo i numeri uno, che abbiamo la miglior sanità e che i veneti sono felici di essere curati dei nostri ospedali. Senta, ma a che condizione può ripartire il modello del nord-est secondo lei? Da noi, dall'autonomia, dalla possibilità di decidere in proprio e che ci lasciano mano libera. La tassazione media è del 68,5% contro una media europea del 46%. Siamo fuori mercato. Sì, però questo per tutti vale. Se anche imprenditori, cioè voglio dire non è solo in Veneto il 68%, ma se anche gli imprenditori come Benetton passano dall'industria ai servizi, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è stata una naturale evoluzione per quell'impresa, per quella famiglia, ma non è così dappertutto. Senta, ma in Veneto esiste già una sorta di Confindustria cinese, diciamo così. Tra 20 anni il Veneto sarà una colonia cinese? No. No? Però, con la crisi, gli immigrati che facevano tanta paura se ne vanno. Avete esagerato con la xenofobia? No, innanzitutto noi non siamo xenofobi. Abbiamo posto una questione che oggi è attuale. Se ci avessero ascoltato 15 anni fa e avessero parlato di contratto di lavoro e quindi contratto di soggiorno e non aprire frontiere così a prescindere, non avremmo questi problemi. Ma qual è la parola d'ordine che resta oggi alla Lega? Indipendenza. Senta, Presidente, le faccio un'ultima domanda. Ma lei da grande cosa fa? L'indipendente. Grazie. Grazie a lei, buongiorno. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, sms 349 238 6666, pubblicità. Mix 24. 9.34, 25 secondi, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, titolo del faccia a faccia con Zaia? L'indipendentista. Te l'ha fatto questa volta. L'ha fatto lui stavolta, sì. Pietrangelo, tu mi ha rubato il titolo perché anch'io ho notato un'altra cosa, che è disposto a insegnare come si fa il presidente a crocetta, però la soluzione più semplice è scrocettalo. Non disperare, perché la vita non è finita se si spera nel domani. Non disperare, lo sai che il mondo in fondi bondi e purgioconde onde le nubi passeranno. Le gocce cadono, ma che fare? Se ci bagniamo un po', domani il sole ci potrà asciugare. Non si rovina il fra, le scarpe fan cicciano. Pietrangelo, il modo migliore per salutare un filosofo è accompagnarlo con un sorriso. E vero. Quindi Manlio nel suo Valhalla, nei suoi campi Elisi, adesso sorride e lì di sicuro non piove. Parliamo di Sgalambro. Sai che non ho capito niente. Cioè, proviamo a sentire se c'è Sara che c'ha una canzone anche lei, che si capisca meglio. Secondo me questa è più chiara. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand. Tardelli, ma l'hai messa per l'8 marzo? Sì, l'ho messa per l'8 marzo, per prenderci un po' in giro, dalle accuse maschiliste che fanno alle donne. I migliori amici delle donne sono i diamanti. Marilyn Monroe. Non è falso, diciamo, non è totalmente vero. Buttafuoco, ci sei arrivato adesso, sì. Tu fuori dal varietà è un disastro. Non ho capito cos'è sta storia dell'8 marzo. Non lo so, una festa di Sara Marina. Ascolta le solite cose ora. Tipo Pietrangelo, ascolta la seconda ora. L'hanno inventata i maschilisti, la festa dell'8 marzo. Sì, sì. No, è un modo di ghettizzare. Non posso fare una battuta che altrimenti mi massacra. Dai. Ma era bellissimo. Le bolle. I sogni son Nel giro di un anno si è detto: l'accordo sulla legge elettorale è possibile. L'accordo sulla legge elettorale è vicino. L'accordo sulla legge elettorale sta per essere raggiunto. L'accordo sulla legge elettorale? Anche stasera. L'accordo sulla legge elettorale? Anche domattina. L'accordo sulla legge elettorale è a un passo. L'accordo sulla legge elettorale? In 2 ore. Mai vista tanta coerenza. Il sogno. Allora, amici miei, che volete che vi dica? Qua la situazione è la seguente. C'ha un po' ragione Sara? Sì, su questo sì. Straordinariamente ha ragione. Eccezionalmente ha ragione. Non ridere dalla regia. Però la situazione è questa: l'Italicum doveva essere un grande accordo da noi salutato con favore per la questione della stabilità, eccetera, è diventato poi un Italichellum ridotto solo ad una Camera e non al Senato. E vabbè, ce ne faremo una ragione anche di questo, ma non troppo. Adesso il problema sono le quote rosa, cioè le donne del Parlamento si stanno un po' alterando, diciamo, sono contrarie a tutti gli emendamenti che sono stati presentati, giudicati finora insufficienti. Segnalo Dorina Bianchi che ha detto: l'unica soluzione è la fidanzata, che devo dire era un po' scontata. Però vabbè, non un granché. No, dai, perché il Parlamento. Questo come tutte è altro. Le cose quando diventano radicali diventano impraticabili. Vabbè, chiaro. Vedo Buttafuoco perplesso. No, che perplesso? Okay. Lei la sto perplimendo. Questa vicenda delle che è sempre no, dillo in Veneto. Sì, perché c'è il tuo presidente. C'è stato il suo presidente oggi, Zaia. Scusa. Che nessuno l'ha detto. Appunto, tu da ieri sei di Padova. Te la spiego proprio in questi termini, no? Allora, tutta sta questione politicamente è nelle mani di chi? Di Stefania Prestigiacomo. Anche. Che all'interno del gruppo di Forza Italia ha mobilitato tutte le signore, è giusto? Abbiamo visto al telegiornale. Sì. Allora, da quando Stefania Prestigiacomo non è più a Siracusa, poi va a finire in quel modo, no? Coi bambini che cantano, lo so. Col sindaco che fa fare le figuracce a Matteo Renzi, con tutto quel che ne consegue di vergogna, Colino. E appunto per questo uno poi gli conviene diventare veneto. Figuracce, ma lui ma tu l'hai scritto? Chi l'ha fatto di voi l'inno? Hai visto Ferrara? C'è stato un inno, sì, com'era sì. Com'era st'inno di Ferrara? Lo volete sentire? Facciamolo sentire. Renzi è un piccolo Porcelli, il vogliam tanto ben, mai nessun ci dividerà, tra la la la la. Se in Repubblica dice ahimè, io dico i là, siamo le guardie del lupetto, to to to to to. Vabbè, questo era Giuliano Ferrara ieri. Ha invitato tutti a farne uno. A farne però, uno. Cioè, beh, abbiamo... chi abbiamo al telefono che ne ha fatto uno il per noi? Il comandante Peppino Sottile. Peppino Sottile ne ha fatta una anche lui. Ce la fai sentire, buongiorno. No, buongiorno. La prego, io sono il maestro compositore, concertatore, arrangiatore, direttore d'orchestra del coro di Siracusa. Ripeto la qualifica perché forse c'è uno stordimento. Ripetiamo. Maestro, compositore, arrangiatore, concertatore e direttore d'orchestra. Ma è stato ben pagato? È stato ben pagato? Sì, perché sono servo del potere. Ho fatto questo mio mestiere con grande dignità. E allora ci faccia sentire la sua nuova. Pronto? Mi manca la tonalità. Vabbè, è andata. Ma che avete un mio, come dire, Lisotta, il Paolo Lisotta delle mie composizioni, il più degno critico della mia musicalità. Buttafuoco da Agira in provincia di Enna. Eccomi comandante, però dopo quella figuraccia io ho rinunciato all'identità nostra, perché dopo quella figuraccia non possiamo dirci che, di avere un presidente come Crocetta. No, vabbè, basta. Questo è un dialogo fra siciliani oramai. Basta, un minuto, basta. Sia chiaro una cosa. Allora, sia chiaro una cosa, che la Sicilia è importante più della Crimea, non è una questione locale. Posso dire? Andiamo avanti. Andiamo in Germania. In Germania. Allora. Ci siamo, l'inno tedesco perché? Perché bisogna tenere d'occhio che cosa sta succedendo nell'economia tedesca, dalla quale noi siamo dipendenti, senza ahimè, perché si tratta del paese core dell'Europa. In gennaio la produzione è salita più 0,7%, era scesa a 0,6% in dicembre. Ci sono dati molto buoni sugli ordinativi industriali, sono raddoppiati rispetto alle previsioni e vengono soprattutto dall'estero, area euro e non euro. Questi dati sono vivono su di noi anche mi pare di capire anche, da questi anche, numeri che ci anche. Stai è dando è molto buona anche la domanda interna, però allo stato attuale. Vabbè, i tedeschi è zona euro, quindi sì, siamo sempre, come dire, anche non euro in casa. Anche non, anche questo non euro. L'hai detto anche non euro. Sono dati comunque positivi anche per noi in prospettiva, perché i tedeschi comprano italiano, bisogna ricordarlo questo, sono un mercato importante per noi. Facciamoci un salamino. Il salamino di oggi stranamente fa appello a Balzac quando si firma con lo pseudonimo di Carmelo Lopata su Repubblica, dal quale veniamo a sapere delle cose che veramente ci fanno impressione, e cioè che intanto è arrivata una notizia, cioè che Berlusconi non si marita. Vabbè, ma no, ha detto che è troppo vecchio. Questo bisogna dirglielo a Marina Milone, che ha perso la scommessa. Sì, è vero. Però, nella descrizione che fa il nostro Balzac c'è una scena bellissima, perché è andato ieri a presentare un libro su questioni albanese, alla presenza della comunità albanese, tra gli applausi dei senatori, è ritornato a Palazzo Madama, in quello che comunque è il palazzo, come giustamente dice Sallusti, dei senatori a vita. Ci fu ovazione e poi a un certo punto c'è una scena deliziosa, e cioè che si presenta davanti a lui Susanna Canzian, nipote di Red dei Pooh, e 25 anni, bellezza bruna che non passa inosservata. Vabbè. C'è una sua traccia in una partecipazione a Belina 2012. e il tipo sussurra qualcosa a Berlusconi che dice portala ad Arcore, le faccio un provino. Vabbè. E a questo punto al cavaliere un provino. A questo punto al cavaliere dedichiamo una canzone. Viva le donne, viva le belle donne. Bene, viva le donne. Viva le donne. E se qual è? Ah, abbiamo tre secondi per il canzoniere. Basta. E lei come si chiama? Aspetti, ce l'ho sulla punta della lingua. Tutto è cominciato così. Questo è l'incipit di un romanzo. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS, strada in diretta. Mix 24. Non l'avevamo mai mandato. Mai messo, buttafuoco non voleva. No, tu in tutti questi mesi, che ormai sono tanti. Niente in americano. Niente in americano, non l'avevamo mai mandato stamattina. Allora ho detto, beh, ma andiamo. A che proposito? Beh, proposito? Lavoro, posti di lavoro. Oggi dovrebbero uscire i dati, anzi, escono i dati sull'occupazione e la disoccupazione negli Stati Uniti. Vediamo quanti nuovi posti aggiungono in febbraio alla loro economia. Le stime degli analisti parlano di 163.000 nuovi posti. Vediamo, in realtà il dato è un po' incerto stavolta ed è influenzato moltissimo, pensa Giovanni, dal freddo. C'è stato finora un inverno durissimo nella costa est degli Stati Uniti e non solo, tutta la zona dei Grandi Laghi ghiacciata, avrei visto le immagini al satellite e così via. E il dibattito degli economisti in questo momento è proprio su quanto questa ondata di maltempo abbia influenzato in più, anzi in meno, la ripresa americana. Quindi interessante. Adesso oggi vediamo i dati. È molto importante guardarlo, perché così capiamo quanto sarà robusta la ripresa americana. Vogliamo sentire ancora qualcosa di però europeo in chiave italiana? Dai, vai. Ancora una. Questo è Rino Gaetano, un bellissimo brano che molti di voi ricorderanno, coloro che ci stanno ascoltando e stanno svolgendo le prime ore della loro giornata. Era Spendi, Spandi e Fendi di Rino Gaetano, un grandissimo cantautore italiano. Perché? Perché è molto importante guardare cosa sarà il futuro dell'euro. La BCE ha tenuto invariata la sua politica, Draghi sta accumulando dati sia sull'entità e la forza della ripresa in Europa, ancora molto incerta in realtà, anche mi se sembra le stime... molto incerta, sì, le stime sono state riviste al rialzo ma in realtà è come solito a macchia di leopardo, varia tra paese e paese, sì. Bene i tedeschi, male noi, benino i francesi. La previsione è che in questo clima di deflazione eccetera, possibile diciamo comunque un preludio, l'euro resterà ancora forte. Quindi cari esportatori italiani, attrezzatevi. Abbiamo problemi. Dunque Maria Luisa Lucia, Maria Lucia, buongiorno. Sì. Allora, buongiorno. Ci dica. Sì, che vuole. Ha indovinato? Dica. La misteriosa fiamma della regina Luana di Umberto Eco. Giusto. Bravo. Bravissimo. Giusto. Un Feltrinelli. Professor Simonelli, lo sapeva anche lei, naturalmente, si capisce, questo è chiaro. Ormai indovino tutti i giorni. Tutti i giorni? Tutti i giorni, questa settimana non ne ho persa una. Mamma mia, e che cosa ci racconta del canone in televisione di ieri sera? Ma se c'è una sigletta, magari ve lo racconto con la sigletta, se no ve lo e ricordate per voi, tutti coloro che non verranno qua, che dopo il sabato... Domenica è sempre... Professore? Cos'era questo? Lei Minoli lo sa. Ma io glielo lascio dire a lei, preferisco. Era la sigla della più bella trasmissione, il più bel quiz degli anni 50-60, il Musichiere. Siamo andati indietro proprio. Ma siamo andati indietro perché ieri... Perché noi facciamo il canzoniere, quindi... No, non è per buttafuoco, non è per, neanche per ecco. È perché ieri sera, sul tardi, seconda serata... Due minuti, professore. Su Rai 2 è partito un programma che si chiama Il Musichione, con Elio e le Storie Tese. Un programma che... cita molti programmi della storia della televisione italiana. Il bello, le è piaciuto? Molto, il Rischiatutto, Portobello, ovviamente Pippo Baudo. Quindi servizio pubblico su Rai 2 ieri sera. Perché in realtà, al di là di queste citazioni, l'atmosfera di questo programma era legata a quella di quelli della notte e di Indietro Tutta. C'era quell'atmosfera goliardica, scanzonata, intelligente, e quindi, come dicono i latini, si parva licet, meglio e quindi ci fa piacere, fare un applauso a Rai 2 ieri sera. E poi? Ne posso segnalare? Sì, scusi professore, c'è Mario che ne ha uno anche. Segnalo lui un film, Il più bel gioco della mia vita, un film straordinario sul golf, è la storia di un ragazzo su Sky, meraviglioso. Ah, rovinato Sky, tu niente, ieri sera dormivi. Perché sei chi ama questi sport un po' bellissimo. Non ho manco capito qual è lo sport? Il golf. Sì, vabbè, non importa. È un pullover. Professore, 50 secondi per chiudere. No, proprio per segnalare che comincia un programma su Sky Arte che si chiama Camerini, che è un programma evidentemente legato al molto teatro. Molto carino, sì. Questo ritorno del teatro in televisione lo teniamo d'occhio perché molto il carino. Servizio pubblico è lì. Grazie, professore. Pino Maniaci è il proprietario e l'anima di Teleiato, che è una televisione locale che si batte per il diritto alla legalità. Sara Tardelli l'ha intervistato. Perché ha scelto di lasciare la sua impresa edile e comprare questa emittente? Da sempre ho avuto il pallino per l'informazione, per la televisione, e ho avuto questa possibilità di cavalcare il territorio, che poi è d'altronde lo spirito di un'emittente locale, a mio parere, cioè raccontare i fatti che succedono, andarsi a cercare le notizie con la schiena dritta. Incontravamo la mafia, raccontavamo delle famiglie mafiose presenti nel territorio. Da Torino, per esempio, da Bolzano, cioè io come faccio a vederla? Cioè, sul web? www.teleiato.it, Teleiato è sul web. Ma avete anche la pagina Facebook, insomma, sapete comunicare bene. Qual è, visto che lei è immerso in questo mondo... da ormai, se non altro, 15 anni per lavoro, qual è secondo lei una cosa efficace che si dovrebbe fare subito per contrastare le mafie? C'è una legge bellissima che è la Rognoni la Torre, che è quella del aggredire i patrimoni mafiosi. È una legge bellissima. Purtroppo ci siamo resi conto che ha delle carenze proprio legislative, nel senso che si dà troppo potere alle misure di prevenzione e troppo potere a quelli che sono gli amministratori giudiziari. Ne viene fuori che il 90% delle aziende sequestrate, prima di arrivare alla confisca, falliscono. Un semplice consulente che va a dirigere una cava, un'impresa edile, dove non ne capisce niente. Ci sono tante cose ovviamente che vanno corrette. Riviste. Torniamo a parlare di televisione. Fare servizio pubblico, secondo lei, che fa televisione, che cos'è? Che cosa vuol dire? Credo che in Italia non esista un non servizio pubblico. Sì, è anche vero che però lei è sempre molto radicale, no? Nelle sue posizioni. Ci sono alcuni programmi che fanno cultura o che fanno scienza che si potrebbero far rientrare nella categoria del servizio pubblico. C'è qualcuno che mi può dire, diciamo, che al di là di programmi come Report o al di là di qualche altro programma diciamo, non c'è un'informazione vera, approfondita. Vera sul territorio e approfondita, o le inchieste come si facevano una volta. Allora le faccio questa domanda: ma lei un pezzettino di canone per la sua teleiato lo vorrebbe? Non abbiamo mai voluto, non abbiamo mai accettato quelli che sono i finanziamenti provinciali, regionali, nazionali, per il semplice motivo di restare liberi. L'informazione vera, l'informazione, diciamo, libera, è l'informazione con le peste al culo. Grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti voi. Buona giornata. Ecco, oggi per la puntata della storia curata da Marina Milone sono Marina Milone e Sara Tardelli che ci raccontano, fanno una cavalcata attraverso le donne degli ultimi 150 anni più significative. Mario, prima di chiudere, un'ultimissima bolla. Sì, nelle classifiche del cinema La Bella e la Bestia di Vincent Cassel, Fu signor Lucci è primo, è un momento di fiaba, d'amore, allora Al Green, Let's Stay Together. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all.